está incantata, tu sei il sogno degli innamorati, il primo viaggio, dopo un dolce bacio, dopo un sì. Città incantata, sei la promessa, il desiderio di ogni amore. Portami a Roma e mi farai felice, è il sogno di chi è tanto innamorato. Portami a Roma e mi farai felice, me l'hai promesso il dì che t'ho baciato. Voglio brindare col vino dei castelli, brindare a un sogno fatto di realtà. Forse sarò un po' brillo, ma il cuore griderà: Roma m'hai dato la felicità. Brindar col vino dei castelli, brindar a un sogno fatto di realtà. Forse sarò un po' brillo, ma il cuore griderà: Roma m'hai dato la felicità.